se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. 'Cause I'm a sad sack post-teen, caught up in the love machine. No gene, concrete, walking like a zombie, like a zombie. And I'm a cold train, fast lane, caught up in the dirty rain. No pain, no gain, walking like a zombie, like a zombie. La nostra potenzialità espansiva è del 10%. Questo ci è stato detto da scienziati della demoscopia, non da scienziati della politica che possono fare analisi astratta. Signori, gli scienziati della demoscopia! Vi voglio accogliere così oggi, secondo il ministro degli esteri Alfano. Dagli scienziati della demoscopia hanno detto che Alfano può arrivare al 10%. Il tentativo di accordo sulla legge elettorale dimostra che noi non siamo quelli che hanno tradito. Noi siamo quelli che hanno capito, perché avevamo capito prima di Berlusconi e prima di tutti gli altri dov'era giusto andare. Noi non ci piegheremo, noi non ci faremo sottomettere, noi non ci faremo annettere. Questa è la verità sui grillini. Basti pensare alle questioni delle firme false a Palermo. Cioè, a parte che secondo me bisognerebbe costituire subito un'associazione a difesa del congiuntivo. Centro, a me fa venire in mente la PlayStation, fare un centro di un centrodestra che preveda di allearsi col centrodestra in un sistema elettorale che non prevede le alleanze. Io lo chiamo PlayStation, cioè la console è a Roma e il joystick ad Arcore. Signori, ma che ha preso ad Alfano? Siamo in piena campagna elettorale, cioè fa le immagini, usa le immagini, queste metafore, ma... Non ho capito niente. No, ma non è che non hai capito niente, è che non gli vengono benissimo, come dire, il ragazzo non buca lo schermo, come si suol dire. A capoccia. No, non è che proprio a capoccia, erano anche azzeccate le immagini, no? Noi non abbiamo tradito, abbiamo capito, la rima baciata, bella. Il joystick per parlare ai giovani, la console, il joystick. Amico poi... mio, ma chi vuoi prendere in giro? No, ma non è questo, è che il joystick poi è una roba proprio da Atari anni 72, insomma, cioè non proprio 72, ma però gli scienziati della demoscopia, ragazzi, cioè quello gli scienziati della demoscopia. È un momento grande, è un momento alto. Signori, questo è 24 mattino. E tra l'altro è martedì, poi c'è mercoledì, poi c'è giovedì, poi c'è venerdì, tre giorni ancora. Licenziato! Grazie Oscar, come umano lei. No! Penso, no, spero. Aspetta che è caduta una penna, mi devo allontanare dal microfono e manda la musica. Ecco, sono tornato. Allora, no, quattro giorni con oggi, poi cambiano un po' di cose qui a Radio 24. Vabbè, ma lo saprete per tempo, non è che devo spoilerare. Attaccare! Ecco, quello sempre, quello sempre, quello sempre. Ecco, solo questo attaccare di Berlusconi vale, come dire, 10 joystick di Alfano. Così è, ma lo dico da osservatore esterno, ma non me ne frega niente. Adesso la gente penserà che io voto Berlusconi, non l'ho mai votato, ma l'ultima volta neanche ho votato, anzi forse le ultime due volte, quindi non appioppatemi cose, su, dai. Io sono abbastanza esterno, osservo così, distrattamente. Allora, signori, intanto a Ponte di Legno ci sono 7 gradi, ci fa sapere Umberto, mentre a Percoto, Udine, 13 gradi e mezzo, bel freschetto, del dopo temporale di ieri, cielo azzurrissimo. A Columbus, Ohio, Matteo ci ascolta con 17 gradi, mentre Marco a Dubai è in un forno a 37 gradi, signori. Ci sono 16 gradi a Paese. Salutiamo il nostro amico Dieng, che ci ascolta sempre da Paese, Treviso. Che bel paese, Paese. Caprino Veronese di 14 gradi, Maurizio. Ci sono anche i 17 gradi di Perth, Chiara è sempre lì e quindi abbiamo fatto un po' il giro del mondo, da Dubai a Perth, all'Ohio, insomma abbiamo abbracciato un po' tutto. Questa versione Peter Pescapè dell'intervallo. Dove l'hai trovata? Va bene, a Chiavenna, Sondrio, 14 gradi, mentre a San Giuliano Terme, Pisa, 21 gradi, ci fa sapere Roberta. Infine 19 gradi a Novara e 11 a Borgosesia. E saluto Pietro. Signori, allora voglio salutare il nostro direttore, Umberto Brindani, direttore di oggi. Caro Buongiorno. Umberto, come va? Tutto bene, ragazzi. Dopo aver sentito Alfano, ho aperto la giornata. Come diceva Benigni, cioè uno, le mamme mettevano i bambini a vedere Emilio Fede dicendo: guarda, quello è direttore del TG4. No, grande, grande abbraccio Emilio Fede, grande, grande giornalista. Ma insomma, è un po' l'autostima di Alfano, è straordinaria, è straordinaria. Gli scienziati della demoscopia l'hanno dato al 10%. Va bene, insieme a Umberto Brindani, direttore di oggi, che va in vacanza. Ma vai in vacanza tu o no? Andrò in vacanza, spero, in agosto. In agosto. Come in... tanti, come te. Come me, un po' tutti. E insieme a te c'è anche Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Signori, buongiorno. Buongiorno. Ieri io l'ho detto, è estate, si vede che è estate da un segnale inequivocabile. C'è un orso da abbattere. C'è un... No, non ho già fatta arrabbiare Carla. No, figuriamoci, no. È tutto un copione già scritto. È un copione già scritto. C'è ogni estate di questi tempi. Ma apriamo il Parlamento, insomma, perché è un momento decisivo. Ragazzi, in Trentino. Se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Ogni estate succede così. C'è uno che passeggia con un cane, viene ferito da un orso brutto, peloso e cattivo. E per questo scatta la caccia all'orso. Guarda qua, Repubblica. Cani, trappole, fucili. 30 esperti forestali cercano di notte l'orsa. È un'orsa. Il governatore Rossi a Trento ha firmato un'ordinanza per catturare l'esemplare in caso di emergenza e possibile anche l'abbattimento. Che eroi, che bravi. Che bravi. Sono coraggiosi, tutti bravi. Tutti contro l'orsa. Sì, proprio una cosa da armitare, veramente. Vabbè. Grande livello. Oggi vedi, guarda libero, gli orsi, una pagina, se li lasciate in pace non aggrediscono nessuno. C'è anche un orso che saluta, fa il gesto, mettono la foto di un orso. Ma libero, alla detta giusta, se li lasciate in pace non aggrediscono nessuno. Non aggrediscono nessuno. Ho capito. Allora, ieri in redazione mia c'è stato un ampio dibattito. Vedi le notizie, altro che Alfano e la Demoscopea. Perché ci sono, sono quelli che sostengono, appunto, quando vedi un orso basta sapersi comportare. Cioè, bisogna stare fermi, rannicchiarsi, non guardarlo negli occhi, c'è tutta una, certo, una casistica, una manualistica. Non scappare. Poi no, ci sono i colleghi che dicono, sì, però mia suocera che va in vacanza in Trentino non esce di casa a fare la passeggiata. Beh, lo capisco, se gli resta la suocera sul groppone magari hanno la loro parte di ragione. Cioè magari dice, suocera vai a fare, vai, guarda quel boschetto, vai, un po' più avanti, vai, ciao suocera. E allora ci sono quelli che dicono, ma se si va in montagna d'estate si va per fare le passeggiate. Se io non posso fare le passeggiate perché insomma, per incontrare l'orso, che facciamo? Che facciamo? Carla, che facciamo? Ma si sa bene dove sono gli orsi e dove non sono, ma è ovvio, no? L'importante è andare dove l'orso lo si vede, così lo vedo, poi lo racconto al bar, lo racconto alla suocera che è rimasta a casa, gli rompo le scatole, capito? Ognuno fa le sue. Quindi bisogna documentarsi su dove sono gli orsi e dove non dove sono gli orsi. Ma non è che bisogna documentarsi. Gli orsi si spostano, però, non è che... Ci sono delle zone dove stanno maggiormente. Si sa, questo è come quando qualche anno fa la povera Danis era andato, sì, il famoso il fungaiolo. Sì. Il fungaiolo che andava per funghi dove per funghi non si doveva andare, no? È vero. Che dobbiamo fare? D'altronde c'è da dire che in quelle latitudini qualche volta scatta questa cosa. Vabbè, ma ho capito, ma io dico, se dovesse succedere, Carla, che non facciamo domande qua, Alessandro, tu sei una persona troppo, voglio dire, troppo intelligente per fare queste domande a cavolo. No, vabbè, se dovessero catturarlo, ma guarda che le percentuali di successo delle catture in Trentino sono strabilianti. L'orsa Danisa, ora Crista, che difendeva i cuccioli, gli sparano e gli sparano però troppo anestetico e schiatta. Un altro orso qualche anno prima gli sparano però sul bordo di un torrente, così l'orso si cade nel torrente e affoga. Devo dire proprio possono esportare, com'era, gli scienziati della Demoscopea. Ecco, qui abbiamo gli scienziati della telenarcosi, si chiama. No, io devo dire anch'io impatizzo per l'orso, tifo così. Insomma, Brindani, come è andato ieri il sondaggio poi in redazione? Cioè, nel senso, come è aperto. Chiaramente non si trova una soluzione. Poi c'è chi dice, ma insomma, non c'era neanche un orso, perché li dobbiamo importare dalla Slovenia? Questa è la domanda giusta. Se l'orso non c'era, vuol dire che quel posto tanto buono per gli orsi non era. Ma l'orso lo si importa perché? Perché prima si prendono i soldi in Europa per tutti questi progetti che non voglio definire. Poi si scrive regione amica dell'orso, qui ci sono gli orsi. Poi lo si abbatte. Naturalmente, se quest'orso gli si rompono le scatole, quest'orso coraccio si difende e lo si abbatte. Devo dire una cosa, cominciamo a avere tantissime reazioni di persone che dicono io non ci vado più da quelle parti. Tra l'altro, guarda, notizia sembra di cacciatore. Allora, ieri è successo questo in Spagna, l'avrei saputa questa cosa, no? C'è una ragazza di 27 anni che era diventata un po' l'idolo dei cacciatori perché si faceva sempre immortalare con le sue prede e si è tolta la vita per motivi che non sappiamo. Ma forse gli sono ricomparsi tutti quelli che ha fatto secchi. Alle volte succede, ci si trova di fronte alla propria coscienza. Dici, ma qualche no, volta può succedere. Ma non è così, cioè, pare che non sia così, pare per motivi personali, però insomma, vabbè, dai, è iniziato un po' un odio anche di chi ha scritto cose un po' così. Vabbè, dai, ma insomma, torniamo agli scienziati della Demoscopea. Ecco, che li chiamo meglio. Gli scienziati della Demoscopea, no? Non riesco a uscirne da questa cosa, anche perché Umberto, io non lo sapevo, cioè io non ascolto i file e l'audio prima, me l'ha messo così Lorenzo Nespoli, mi ha sorpreso con questo Alfano che punta al 10%, ma tanto ognuno può dire quello che vuole adesso. Noi se fondiamo un partito puntiamo al 12% in un attimo, caro Brindani, era una proposta. No, ma sai, c'è questa storia, adesso io dico questo, l'avevamo detto un po' tutti subito dopo il 4 dicembre, no? Saremmo stati davanti a una campagna elettorale infinita, ma io dico, ma siamo in luglio, no? In luglio. Sì. Siamo per andare in vacanza oppure comunque per prenderci qualche giorno di riposo. E siamo in piena campagna elettorale, saremo in campagna elettorale per i prossimi 8-9 mesi. Sì. E siamo un paese strano, perché da un lato c'è un governo che cerca di governare e dall'altro quelli che lo sostengono, quelli che si oppongono, quelli che sono contrari, continuano questa campagna elettorale permanente. Io sinceramente non ne posso più. Sì, non ne posso più, non ne posso più anch'io. E siamo solo all'inizio, Carla, siamo solo all'inizio. Ma devo dire che ormai è un rumore di fondo, non c'è più nessuno che si sorprenda di qualcosa, perché la noia di questo panorama è che nessuno riesce a sorprendere nessuno. Mm. Tutti dicono cose ovvie, alla fine questa Delfano è un raggio di luce. Sì. Ma no, infatti, sembra di solito l'anonimo grigio Alfano, cioè ha alzato la testa e ha detto, ha parlato di joystick, di robe. Nel panorama fa la sua figura. Fa la sua figura. Signori, allora io voglio chiedere anche a voi, ci sono due temi che oggi ci sono sui giornali. Vabbè, era saputo, ne abbiamo parlato, i 25 milioni di fuoriuscita, di buona uscita a Flavio Cattaneo, Telecom, non parliamo dal punto di vista economico, dopo vedremo in rassegna stampa, c'è tutto l'aspetto anche economico, interessante da discutere del dopo Cattaneo. 25 milioni... Lordi però, per carità, Brindani, quindi lordi, per cui cosa rimarranno? Poi considera che, stando a quello che si legge, è stato un accordo transattivo, per cui se lui si impuntava, come si dice, sembra arrivare a 50 milioni, quindi ha rinunciato alla metà. Però la cosa curiosa di questa vicenda è che fino a ieri Cattaneo era, per il grande pubblico, il marito di Sabrina Ferilli, no? Effettivamente, sì, libero così l'ha messo anche il signor Ferilli. In realtà, però in realtà adesso è un manager. Famoso lui, quando li vedranno in giro, perché loro escono spesso a Roma in tutte per fare due corsette, diranno: guarda, quella è la moglie di Cattaneo. sì, esatto, è incredibile, la moglie. Effettivamente 25 milioni, ma per carità, cioè, oggi, guarda, salto sulla Gazzetta dello Sport, giornale che con la Rocchi legge come primo giornale. Io sempre. Cioè, signori, questo non è che bisogna... Neymar, hai presente, Carla, chi è Neymar? Ho presente. Ne hai sentito parlare? Vabbè, vedo che sei ferrata sul calcio. Neymar dal Barcellona potrebbe andare a Parigi, al Paris Saint-Germain, che è proprietà degli sceicchi, a fare da 562 milioni. Appunto. Cioè, capite che, voglio dire, adesso... cioè, se Neymar vale non so quanto di questi 562 milioni, ecco, 300 milioni di ingaggio immagino per 4-5 anni, 300 milioni di ingaggio, cioè, allora sì, però, Cattaneo è in offerta speciale, vogliamo dire Cattaneo? In offerta speciale, no, non lo so, cioè, nel senso che il merito di Cattaneo, ne parlavamo anche ieri con Oscar Giannino, il merito di Cattaneo c'è, di aver risanato, aver portato un miliardo di attivo l'azienda, eccetera, però forse anche di fronte al grande merito, dopo essere stato 15 mesi in un'azienda, 25 milioni, come dire, sono un po' troppi, non lo so, però io non so nemmeno quanti zeri ci sono, quindi francamente non so valutare. Certo, non piace sentire una cosa così, non piace, però non se piace, poi lo confrontiamo con Neymar, diciamo che siamo in un mondo impazzito, direttore, tu che dici? Allora, sono un'assoluta esagerazione che grida vendetta al cielo, naturalmente. Però I 25 milioni. Però ti faccio una domanda. Sono più scandalosi i 25 milioni a Cattaneo o i 6 milioni questa volta netti all'anno al diciottenne Donnarumma? Anche questo. Cioè, ma per carità, ma quando si parla di soldi poi si trova lo scandalo dietro l'angolo, per carità. Sì, anche i 6 milioni a Donnarumma mi sembrano tanti, come i 10 milioni a Bonucci, visto che parliamo sempre di calcio, abbiamo preso Bonucci a 31 anni, 10 milioni calcio, l'anno. Voi sapete che Donnarumma ha fatto assumere anche il fratello, sì, che sarà diciottenne, per un milione? Come no, certo. Allora. Io lo so abbastanza, praticamente li ho pagati io, li pago io. No, ma è chiaro di sì. Per carità, e tutto questo però, Brindani, non deve, io lo dico sempre, non deve suscitare l'invidia sociale. Cioè, tu sei invidioso dei 25 milioni di Flavio Cattaneo? No, ma non è una questione di invidia sociale. Della Ferilli, forse. Sempre. No, è una questione di disuguaglianze che crescono. Cioè, voglio dire, questo è un paese che ha, secondo l'Istat, 7 milioni di poveri, secondo i criteri europei, sono 7 milioni le persone che non possono permettersi tutta una serie di cose, diciamo, basilari, e contemporaneamente è un paese che paga 25 milioni questo per... poco più di un anno di lavoro, che paga 6 milioni a quell'altro perché ha dimostrato di essere potenzialmente un bravissimo giocatore di calcio, che paga 11 milioni Fabio Fazio perché altrimenti la Rai crolla se Fazio se ne va. Insomma, è chiaro che le disuguaglianze sono enormi e crescenti. Quindi sì, e soprattutto è evidente che ci si arrabbia. Esatto, ma anche perché di fronte al merito che c'è, come nel caso di un manager come Cattaneo, però uno non può non notare che ci sono migliaia di dipendenti da Telecom in solidarietà. Magari con quei 25 milioni si abbatteva a metà della solidarietà, che ci sono, vuol dire, sacche di difficoltà sociale, e uno dice porcaccia miseria, va bene, ma tanto aveva anche già lo stipendio, un buono stipendio credo, era proprio necessario dopo 15 mesi transare per 25 milioni? Cioè, sono cose che al di là del merito fanno storcere il naso. Comunque, c'è un'altra questione, ma l'affronteremo tra un attimo dopo il traffico, anche perché qui, caro Brindani, abbiamo Carla Rocchi, che è stata in Parlamento e quindi tante volte già ci ha detto ha un vitalizio per questa cosa. E c'è tutta una discussione, e questa settimana va alla Camera la proposta Richetti per il ricalcolo contributivo del vitalizio. Oggi Mastella sdegnato, non ne può più, fa un'intervista al Giorno in cui dice basta, noi beffati ricorreremo tutti alla Corte Costituzionale. Tra un attimo. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Ciao Milani, sto ascoltando dove dice Berlusconi il 51% e comanda lui e poi fa felice l'Italia. Ma chi fa felice? Ladro, è ladro, è cornuto che ci dà il voto. Ciao Milani, ti saluto. È tornato Ghedini, ma che escono dalle tombe, che sono zombie questi. 3 giorni di discussioni sul PD, i 3 giorni del Condor, si mangiano tra cadaveri. Milan, sta schish col calcio d'agosto, eh? Fai il bravo. Like the legend of the Phoenix. Ma non ha paura che le fa un film tutto cattivo, contro, demoniaco? No, veramente non ho avuto questa impressione parlando con lui. E poi non credo che in un momento di una popolarità riaumentata su di me sia una cosa conveniente di fare un film contro di me. Eccolo lì, Berlusconi che parla di Paolo Sorrentino. Sì, perché Brindani, c'è quest'altra cosa: Alfano al 10%, Berlusconi al 51%, che poi ogni volta bisogna spiegare che basta e voleva dire il 50% più un voto, però vabbè, c'è questa cosa del 51%. Salvini che dice mai come così in alto, poi c'è il PD Renzi al 30%, in pratica vota il 162% degli italiani. Se non sbaglio, Berlusconi ha scommesso una pizza sul fatto che che arriva al 30%, certo. Esatto. D'altronde, ragazzi, questi scienziati della demoscopia devono avere un attimo pazziato ultimamente, non lo so. Comunque, signori, questa è storia dei vitalizi. Carla Rocchi, che succede? Ti toccano il vitalizio? A me non toccano proprio. No. Per quanto riguarda la mia, ma io vivo del... ho sempre lavorato, vivo sempre di quello che... No, ho capito, però cioè, se fanno il ricalcolo contributivo arriveranno il vitalizio. Lo so, ma tanto guarda, il mio vitalizio è destinato dall'inizio, io non ho mai toccato una lira del mio vitalizio. Ne andrà meno dove è sempre andato, ne andrà meno, che posso fare. cioè agli animali. Agli animali. Sì, è così. È una scelta mia, ma da sempre. Ho capito, ma fare, ma ecco, l'idea di fare ricorso alla Corte Costituzionale. Guarda, no, perché sono quelle cose stile, appunto, è come se no, il discorso di Cattaneo. Magari in punta di diritto troverete anche dei giudici in Corte Costituzionale. Troveranno, che, voglio dire, io intanto troveranno. Per cominciare, io sono come io sono un po'. Io sono fatta alla mia maniera, e non ho mai toccato una lira di questo vitalizio. Se diminuisce, ovviamente mi spiace per la destinazione a cui andava, però per il resto non esiste che io mi metta, ma non esiste proprio che uno si metta all'arma bianca contro cosa poi? Contro un Parlamento di cui ha fatto parte e che con situazioni diverse, con climi diversi prende le sue decisioni. Io non lo trovo molto. Eh no, perché qua si profila, caro Brindani, una battaglia, cioè Matteo Richetti che porta avanti questa idea nel PD di ricalcolo contributivo, cioè che poi è una norma banale, dice ma tutti gli italiani hanno avuto la legge Fornero, tutti, Brindani, tutti, io, tutti. Oh, quelli lì no, perché non il vitalizio non è una pensione, iniziano con le questioni di lana caprina, il vitalizio non è... Sì, devo dire che non mi eccita particolarmente. Ma no, ma voglio dire, infatti dovrebbe essere derubricata in 3 secondi, fatto, bravo. A capo, avanti. Cioè. Va rifatta, va risistemata, vanno adeguati a quello che prendono il resto degli italiani. Mi sembra però, come dire, un cascame della battaglia anticasta che in questo caso mostra un po' la cosa. La cosa bizzarra è che adesso stanno litigando tutti, non per il vitalizio, ma per chi se lo intesta. Perché il PD dice il nostro, lo votiamo con i nostri voti. Grillo sta in tribuna che gli tira giù. Sì, ma certo, cioè, ci sono paginate, sì, discussioni. Andrebbe, no, Brindani, andrebbe fatto in silenzio. Abbiamo rimesso con ricalcolo contributivo anche i vitalizi dei parlamentari. 3 righe, sì, avanti. Sì. È come un regolamento di Montecitorio da sistemare in qualche punto, diciamo. Che lo è poi nella sostanza, lo è, perché sarebbe bastato o basterebbe una norma, una procedura degli uffici di presidenza, ma siccome tutti devono partire la gran cassa su qualcosa, adesso stanno tutti pronti stamattina con le penne. Tanto guardate, alle persone importa talmente poco di quello, o meglio, importa talmente tanto che nessuno riuscirà a intestarsi questa cosa. Ma no, ma infatti importa, nel senso che ma la rendono importante o no nel dibattito pubblico? Non lo so. Perché pensano che possa portare uno straccio di voto. Ma non lo so se lo porterà. Questo no, se porterà un po' di indignazione d'accatto, così. Ah, no, io sì, appunto, non credo. Credo sia proprio ormai una battaglia vecchia, insomma. Ci hanno messo poi anni. Allora, piuttosto interveniamo sulle pensioni anche private di quelli che prendono 90.000 euro al mese, cioè voglio dire, ci sono persone che con il contributivo, con il retributivo hanno accumulato pensioni pazzesche, no? Allora parliamo anche di quelle, non solo di quelle dei parlamentari. La tragedia è che non esistono pensioni private, perché sempre dal pubblico hanno preso qualcosa. Non ci dimentichiamo, certo, i manager delle banche, con cosa sono andati a casa, con le loro banche fallite e con le banche piene, strapiene, e non mi si dica che quello è un comparto privato, non lo è. Sì. Allora, qui signori, che dire, vogliamo sentire una perla di Fusaro oppure vogliamo fare il premio Giachetti? Facciamo una perla di Fusaro intanto, la perla del filosofo Fusaro. Più precisamente, diciamolo apertis verbis, occorre reagire alla tecnicizzazione integrale oggi in atto, tecnicizzazione in forza della quale sparisce la paideia, l'educazione filosofica e politica, e tutto diventa tecnica, non soltanto i governi tecnici, ma anche le questioni connesse a problemi eminentemente politici, come la vicenda dei vaccini. Non so, Brindani, hai capito? Cioè, no, i vaccini, la paideia, l'educazione, Fusaro, porca giù. Ti ringrazio per Fusaro. Apertis verbis. Le perle di Fusaro sono dei momenti. Vabbè, dai, chiudiamo con il premio Giachetti, signori. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Allora, signore, è sempre un grande momento, cara Carla Rocchi, a chi vogliamo assegnare il premio Giachetti? Ciao a tutti i cacciatori. A chi... Per adesso io ho sempre una mia stella polare, che è sempre il ministro Galletti. Ma c'è un'ossessione, però la tua è un'ossessione, poverino. Prima... No, un santo, guarda, un faro luminoso nelle nostre vite. Annaccia. Umberto, a chi dai il premio Giacchetti? Ma forse a Matteo Salvini? Con Elisa Isoardi va tutto bene. Sì, guarda, con Elisa Isoardi va tutto benone, benone, benone, ha detto benone. Risolviamo tutto in casa, in casa. Vabbè, dici che non è così? No, poveraccio, adesso c'ha pure i 49 milioni confiscati. Sì, quella è vero. Quella è una bella storia, ma da dove li piglieranno? Non lo so, ma hai qualche anticipazione su oggi, su Salvini? No, ci stiamo lavorando. Sì, adesso, come sempre, al martedì chiudo la telefonata. Vai a capire come aprire, mi sembra giusto. Lo scopriremo domani in edicola, va bene. Grazie a Umberto Brindani e Carla Rocchi, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta... Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan. Anche quelli di Roma. E Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia. Perché? Che se cazzo fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:17 minuti e siamo pronti alla lettura dei giornali in questo martedì, in questa ultima settimana di 24 mattino prima delle vacanze estive. Allora andiamo, Peter Bescapè, forza! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 25 luglio con le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore, Team Cattaneo lascia, si apre il dossier Canaplu. Questo il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera l'Unione Europea sia seria, basta battute, è l'appello del capo dello Stato Mattarella. Anche Repubblica, Unione Europea e migranti, nessun paese si salva da solo, è il titolo di prima pagina. Mentre il Messaggero ha un forum con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al Messaggero. A Roma userò il pugno di ferro. Governare la capitale è difficile. Ci sto provando e ho commesso errori. Così Virginia Raggi al Messaggero. Per la Stampa, il Fondo Monetario boccia Trump. Il boom ancora non c'è. Mentre il Fatto Quotidiano apre sui vitalizi. Il voltafaccia del PD. Toccare i vitalizi è macelleria sociale. Poi l'apertura per il Giorno e Avvenire è sulla vicenda che volge a una drammatica fine, quella di Charlie Gard. Charlie, la battaglia è finita per il Giorno, per il piccolo bimbo che tanto ha fatto discutere in Gran Bretagna e non solo. Avvenire, la resa dei genitori per Charlie, è tardi. L'apertura della Verità sugli immigrati, la truffa degli immigrati minorenni, la legge che impone di accoglierli è sbagliata, se ne accorge anche il Parlamento, raddoppiati gli arrivi dai paesi non in guerra di maschi di 16 e 17 anni, spesso spediti qui proprio dai genitori. Mentre per il Giornale, via libera ai clandestini ma caccia ai poliziotti. L'apertura infine del Manifesto con l'acqua alla gola sulla crisi idrica di Roma, Regione Lazio e Acea si rimpallano le responsabilità. Allora, soldi! Vi piace quando vi accolgo così. Soldi, soldi, soldi! Intanto i 25 milioni lordi con cui Flavio Cattaneo lascia Telecom Italia. Leggo da Antonella Olivieri, sono a pagina 2 del Sole 24 Ore. L'era di Flavio Cattaneo in Telecom si chiude con una buona uscita record, 22,9 milioni a titolo di transazione, spiega una nota della società, riferiti a compensi dovuti sulla base del suo contratto, considerati in particolare il cosiddetto Special Award e l'MBO in relazione all'attività già resa come amministratore e al valore che risulta creato sulla base dei dati oggi disponibili. Questo accordo prevede inoltre la corresponsione all'amministratore delegato uscente di altri 2,1 milioni per il patto di non concorrenza, di non sollecitazione e non storno della durata di un anno nei confronti dei principali concorrenti di TIM in Italia e in Brasile. Cattaneo quindi lascia con 25 milioni lordi di viatico la metà di quello che gli sarebbe spettato secondo i conteggi iniziali relativi alle sue spettanze complessive. Dunque poteva puntare anche a 50 milioni se non ci fosse stata una transazione. Certo che questa uscita anticipata, come scrive Il Sole, ha provocato una spaccatura in seno al CDA. In consiglio, assente giustificato solo Cattaneo, i cinque rappresentanti dei fondi hanno votato compatti per il no. Nella lista Vivendi, 9 sì, presente fisicamente anche l'ex presidente Franco Bernabè, non si sono invece registrate defezioni sulla linea tracciata dall'azionista. E dunque, la spaccatura è stata tra organi sociali, con il collegio sindacale che ha dato parere negativo, un no pesante per quanto non vincolante, considerato che è in corso un'indagine Consob per appurare la reale natura dell'influenza di Vivendi sul gruppo. Ovviamente si aprono altri dossier economici, ma certo... Ma vedete, anche Aldo Cazzullo oggi ne scrive in prima pagina del Corriere della Sera. Viviamo in un'economia capitalista, quindi stipendi e buonuscite non ci dovrebbero scandalizzare. Però i 25 milioni con cui Flavio Cattaneo ha lasciato TIM un po' scandalosi lo sono, scrive Aldo Cazzullo, che poi continua a pagina 6. Intendiamoci. I prezzi e salari li fa il mercato. I 30 milioni spesi per il fuoriclasse immaginario Gabigol sono molti più dei 222 chiesti per il fenomeno autentico Neymar. Non sappiamo se Cattaneo sia Gabigol o Neymar, probabilmente una via di mezzo, cresciuto come spesso accade in Italia anche grazie a relazioni pubbliche, anche politiche, passato con successo al settore privato, sostiene di esserseli meritati tutti i 25 milioni con cui Bollorè l'ha congelato. Resta il fatto che con la sua buonuscita si potrebbero pagare gli stipendi mensili a circa 10.000 dipendenti della sua ex azienda. Quando la regola di Olivetti, un grande imprenditore, non un bolscevico, era che lo stipendio più alto non potesse superare di 10 volte quello minimo e a un impiegato normale non basterebbero molte vite per arrivare ai 2 milioni che l'amministratore delegato di TIM guadagnava ogni mese. Ora, il problema... Non è l'estate felice che passeranno Sabrina Ferilli e il suo consorte. A ben vedere, il caso Cattaneo rilancia una serie di questioni: il peso crescente dei nostri settori strategici della Francia, sostenuta da un sistema politico che produce leadership e stabilità, mentre l'Italia ha davanti mesi di incertezza. L'assetto tecnologico e proprietario della rete su cui passano le telecomunicazioni, che arrovella la politica sin dai tempi delle privatizzazioni. C'è chi guadagna decisamente troppo rispetto alle proprie capacità e al proprio contributo, chi troppo poco. I manager a volte vengono liquidati a peso d'oro anche se hanno danneggiato le aziende. In tal caso non si paga il merito, ma lo status. Ci sono poveri che lavorano ma hanno redditi insufficienti, insufficienti a pensare di mettere su famiglia, far figli, costruirsi un avvenire. C'è una classe media che si impoverisce anche perché i suoi salari sono fermi. E Aldo Cazzullo certo esamina questo stipendio che, al di là del merito se è discusso, forse fa stupore, fa un po' scalpore. Ma certo, a proposito di soldi, appunto, è stato citato anche nell'articolo di Neymar, può sembrare strano piazzare qui la Gazzetta dello Sport a questo punto, ma signori, cose da pazzi, titola la Gazzetta dello Sport a proposito di soldi, perché l'affare Neymar, che potrebbe passare dal Barcellona al Paris Saint-Germain in Francia, è un affare, udite udite, da 562 milioni di euro. Di questi 562, 300 milioni sono l'ingaggio al calciatore. 300 milioni, non so in quanti anni, forse in 5 anni. Fa 60 milioni l'anno, se fosse 40 milioni vanno al padre procuratore. Cioè, capite che è, adesso dirò questa cosa da trombone, un mondo impazzito, nel senso che non si capisce bene. È chiaro che ci sono le sperequazioni, ci sono le spaccature tra chi vede queste cifre, le vede come delle montagne davanti di inenarrabile grandezza e chi invece le gestisce con nonchalance, no? Questo è A proposito di soldi, la sentenza a Genova che ieri ha mandato condannati Umberto Bossi e l'ex tesoriere della Lega Belsito, a Bossi 2 anni e 6 mesi, a Belsito allora tesoriere 4 anni e 10 mesi, al di là delle condanne penali, comporta, come scrive Luigi Ferrarella in prima pagina del Corriere della Sera, ma la vicenda la trovate un po' ovunque, comporta un sequestro, una confisca di 49 milioni di euro alla Lega. Ora, la confisca è in primo grado, quindi non è esecutiva. Però, truffa allo Stato, Bossi condannato, confiscare al Carroccio 49 milioni di euro. Senza ribaltamento in appello, l'atto diventerà esecutivo, anche con la prescrizione. Per la verità sono 48 milioni 969 mila euro di finanziamento pubblico. Sono quei rimborsi elettorali che dal 2008 al 2010 rimpinguarono le casse degli avversari di Roma Ladrona, come lo dice Luigi Ferrarella. E quindi questa confisca, che è in primo grado appunto, dunque non immediatamente esecutiva, è però uno spettro sul partito, visto che comunque prima o poi arriverà, indipendentemente dal fatto assai possibile che nelle more dei futuri processi d'appello e di Cassazione maturi la prescrizione del reato. Dunque, anche con la prescrizione, il rischio è che ci sia questa spada di Damocle, 49 milioni di euro di sequestro per la Lega. Ovviamente Salvini dice quei soldi non ci sono, poi noi siamo vittime di tutta questa situazione. Sergio Rizzo su Repubblica riepiloga un po' tutta la vicenda. Dal 96 al 2008 i finanziamenti salirono fino a toccare i 300 milioni di euro l'anno e si racconta un po' della storia anche di queste spese, come quelle trovate nella famosa cartella The Family, cioè la famiglia Bossi, l'abbonamento alla Pay TV, la luce, il gas, la parcella del veterinario per il cane. Pensava fossero soldi di famiglia, è stata la giustificazione al processo, ma non è servita, in primo grado si è beccato 1 anno 8 mesi. Dunque, questa è la situazione politica ma anche economica per la Lega, che tra l'altro, fa sapere il quotidiano La Stampa, sta pensando a un cambio di logo. Cioè via la parola Nord, non più Lega Nord, ma Lega dei Popoli Salvini. Io il logo che è messo sulla stampa l'ho messo sul mio profilo Twitter, Alino Milan, lo trovate lì se volete andare a vederlo. E cioè la Lega sta pensando, con l'era Salvini, a cambiare da Lega Nord a Lega dei Popoli. Ecco il piano per un nuovo simbolo. Dalla bozza sparisce il Nord. Va bene, a proposito di soldi, è la settimana decisiva anche per il cambio nei vitalizi, cambio che non verrà, state tutti tranquilli, anche tutti gli onorevoli che si agitano, non ci sarà alcuna legge Richetti l'abbiamo ospitato, forse passerà alla Camera, poi si arenerà al Senato, poi al limite ci sono i ricorsi alla Corte Costituzionale, è tutto sotto controllo, cari parlamentari. Per carità, questa battaglia dei vitalizi, che dovrebbe essere una battaglia, si diceva prima col direttore di Oggi Umberto Brindali, che non finisce sui giornali con questo dibattito, alimentando sì questa battaglia l'antipolitica, alimentando sì con alcune posizioni di alcuni parlamentari l'antipolitica. Non è l'antipolitica, non è il populismo che si impone nell'agenda politica. Sono loro, con le loro dichiarazioni, che alimentano l'antipolitica, perché una vicenda del genere, cioè il ricalcolo in base contributiva dei vitalizi, dovrebbe finire in 3 righe all'interno dei giornali come una cosa che il Parlamento fa. È stato fatto il ricalcolo contributivo come per tutti gli italiani, anche dei vitalizi. Punto. 3 righe a capo, senza dibattito parlamentare, fine. Invece, alimentando proposte di legge che non vanno, proposte di legge che sono affossate dallo stesso partito del proponente della legge, dibattito, scandali, politici che si agitano dicendo è una vergogna, è un attacco. Ecco, questo dibattito alimenta l'antipolitica. Comunque, vitalizi, riforma tra i mal di pancia, gara PD Grillo per intestarsi i tagli. Questo è il titolo del giorno su questo tema, che tocca, ricordiamo sempre, credo, lo 0,2% della spesa pubblica italiana. Quindi nulla però si alimenta una gara all'antipolitica alimentata dalle dichiarazioni dei politici, lo ribadisco per la quinta volta. Il voltafaccia del PD, toccare i vitalizi è macelleria sociale. Questa è l'apertura di prima pagina del Fatto Quotidiano. Si prendono dichiarazioni del PD Maino Marchi, che dice: alla proposta di legge del collega dello stesso partito Richetti, dice: il disegno di legge che introduce il metodo contributivo per il calcolo del vitalizio dei parlamentari è il grimaldello per una vera e propria macelleria sociale ai danni di tutti i lavoratori che hanno già avuto il calcolo contributivo, con il dimezzamento dei trattamenti pensionistici calcolati col metodo contributivo. Questo il PD Marchi, il PDino Marchi, aberrante, ingiusto, no alla macelleria sociale. E infatti anche Mario Giordano oggi descrive in prima pagina della Verità: vediamo chi osa difenderle ancora i vitalizi. Gliela fanno, scrive Giordano, davvero tagliano i vitalizi? Non illudetevi. La legge Richetti che arriva alla Camera con colpevole ritardo e eccesso di timidezza è destinata a spiaggiarsi al Senato. Difficilmente vedrà la luce in questa legislatura ed è un peccato, perché pur essendo assai più moderata di quello che occorrerebbe, va nella direzione giusta, proponendo un ricalcolo delle onorevoli pensioni in base ai contributi versati. Mi pare il minimo, no? Facciamo un esempio. Il dottor Giuseppe Gambale, 53 anni, fa il medico a Roma, ma a differenza di tutti gli altri medici, lui, oltre allo stipendio, incassa una pensione già da 11 anni, cioè da quando ne aveva 42, una pensione da 8.455 euro lordi al mese. Deputato nel 92 a soli 28 anni con la rete di Leo Luca Orlando, è stato in Parlamento fino al 2006. Da allora prende il vitalizio da, ripeto, 8.455 euro al mese, tutti i mesi che il buon Dio manda in terra. Ho fatto un calcolo, ha versato 220.000 euro di contributi e ha già incassato a tutt'oggi 1.200.000 euro. In pratica gli abbiamo regalato con le nostre tasse 1 milione di euro. Ora auguro lunga vita al dottor Gambale, ma se dovesse vivere quanto un italiano medio, quanto finirebbe per costarci? Ecco, partendo da qui, poi analizzando nel suo pezzo Vitalizi, vediamo chi osa difenderli ancora, Mario Giordano dice: guardate per esempio con questo esempio quanto c'è di sproporzione tra contributi dati e contributi che vengono invece riottenuti indietro. E a questo proposito, come non tenere le mani sul volante per l'intervista di Nino Femiani a Clemente Mastella. Clemente Mastella che esplode la sua ira dal giorno. È una beffa populista, una cosa che non esiste. Questo vitalizio c'è in tutti i parlamenti del mondo. Se poi si vuole andare a vedere il pregresso, si finisce per dare lavoro alla Corte Costituzionale. C'è la messa in discussione di un diritto maturato. È un problema. Bisogna fare i calcoli di quanto versato e quanto si sarebbe dovuto versare dal punto di vista contributivo. Nel mio caso è pari e patta. Un parlamentare decurtato e mortificato ingiustamente, è ovvio che si appellerà alla Corte Costituzionale. Già, è ovvio. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan che fa il conduttore, sono cose che capitano, perché in questo paese quando le cose capitano è pieno di gente che dice sono cose che capitano. E va bene, alle 7:36 minuti. Allora siamo qui. Ieri il capo dello Stato Mattarella ha fatto un appello all'Unione Europea invitando a trattative serie. Basta con le battute, ha detto il capo dello Stato. Non c'è più spazio per le battute estemporanee al limite della facezia. Mattarella mette sotto tiro gli austriaci, come racconta Umberto Rosso a pagina 2 di Repubblica. Austriaci che pretendono che l'Italia lasci gli immigrati rinchiusi a Lampedusa. E replica con decisione anche al gruppo di Visegrad, il cartello dei duri dell'Europa dell'Est, vale a dire Polonia, Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, che alzano muri e filo spinato, e un paio di giorni fa avevano spedito una lettera a Gentiloni per chiedere la chiusura dei porti e i centri di accoglienza fuori dall'Europa. Ecco che allora il Presidente della Repubblica cambia passo e annuncia la linea della fermezza dei negoziati con l'Unione Europea. Tra l'altro sulla Repubblica c'è un bell'articolo di Gianluca Di Feo che racconta il rapporto tra i migranti, noi, Parigi e quindi la Francia. Ecco qui l'esodo dei disperati dal Niger all'Italia e i militari francesi fanno finta di nulla. Il Niger è la chiave di tutto in Africa. Scrive Di Feo, no, Macron non intende accogliere i migranti economici che varcano il Mediterraneo. Parigi non aprirà i porti. Non è un problema loro, che se la sbrighi l'Italia. Già, ma da oltre 2 anni l'esodo dall'Africa verso l'Europa passa sotto gli occhi delle truppe francesi che nulla fanno per ostacolare gli affari dei trafficanti d'uomini. La rotta fondamentale per la Libia ormai è una sola, attraversa il Niger, passando dal crocevia di Agadez per raggiungere Segeden. E il terminale di questa carovaniera è sorvegliato da un vecchio fortino coloniale chiamato Madama, accanto al quale nel 2014 i francesi hanno costruito una potente base militare. È l'ultimo avamposto prima della Libia. Lì, sotto gli occhi dei legionari, nel 2016 sono transitati 291.000 migranti, tutti diretti verso nord e in gran parte destinati a salire sui barconi. Si muovono in lunghe colonne di camion, pick-up, colmi all'inverosimile di merci, persone. Difficili non notarli nella vastità del Sahara, soprattutto per il contingente francese che si schiera a squadriglie di Mirage da ricondizione, droni, elicotteri. Ma la guarnigione dell'armée non si cura di questa moltitudine in movimento nel deserto. Ci sono foto che mostrano l'equipaggio dei blindati francesi mentre saluta i migranti stipati in cima a un camion, gli stessi che settimane dopo verranno soccorsi dalle navi del canale di Sicilia. O ci sono immagini di fuoristrada zeppi di persone che arrancano vicino ai bimotori Transal parcheggiati all'aeroporto della base militare. I mercanti di uomini si mostrano tranquilli, anzi rassicurati dalla presenza dei soldati. Ed è qui l'atto d'accusa, dunque, che continua su Repubblica di Gianluca Di Feo nei confronti della Francia, se volete, che dice è lì in Niger e non fa granché per questa situazione. Va bene, veniamo all'Italia, alla politica. La politica vede che cosa? Beh, il dibattitone. Quarto giorno di dibattito sull'opportunità dell'abbraccio di Maria Elena Boschi e Pisapia. Sotto accusa è Pisapia da parte della sinistra bersaniana. Non doveva abbracciarla, soprattutto con quel sorriso, con quella compiacenza, con quella voglia di abbracciare. Un dibattito davvero surreale, che mezzo ne basta. Ecco, oggi la maca di Michele Serra è dedicata a quello, il caffè di Massimo Gramellini è dedicato a quello, c'è un'intervista sul Fatto Quotidiano a Tommaso Montanari che a sinistra dice Boschi è più che un'avversaria, è tutto ciò che rappresenta una persona che chi vuole una sinistra alternativa non dovrebbe mai neanche incontrare. Cioè, proprio un disprezzo, un odio che sinceramente proprio un odio fisico, un odio, una repulsione che davvero mi lascia molto perplesso. E forse la notizia politica più importante è l'intervista, o meglio il forum al Messaggero, del sindaco di Roma Virginia Raggi. 2 pagine, pagina 2 e 3. A Roma userò il pugno di ferro. Vabbè, questo è un po' uno slogan. È ora di usare il pugno di ferro nei confronti di coloro che remano contro il cambiamento. Ci sono sacche di inefficienza in alcune partecipate che sono inaccettabili, vanno spazzate via. Questo è l'inizio del dialogo di Virginia Raggi col Messaggero, giornale non certo amico al sindaco di Roma. Ho fatto degli errori, mi sono fidata di Raffaele Marra, una persona di cui certamente non avrei dovuto fidarmi, ho chiesto scusa ampiamente, ora siamo andati avanti. Non mi dimetto, ripete ancora in caso di condanna, non rispondo mai a ipotesi, mi attengo al codice etico. E poi sulla siccità. Penso che sia inaccettabile che oltre 1,5 milioni di romani restino senza acqua. Ho deciso di chiamare la regione e Acea per convocare un tavolo in Campidoglio e superare qualsiasi strumentalizzazione. Ci incontreremo domani, cioè oggi, questo ieri l'ha detto. In Acea ci sono già stati investimenti sulle reti e questo ha già permesso di risparmiare circa 700 litri al secondo di captazione. Poi devo dire, è tutta una serie sia sui rifiuti, su altre tematiche, sulla politica, sull'AMA, sulle partecipate, una serie di domande alle quali effettivamente le risposte di Virginia Raggi, almeno detta il Messaggero, sono un po' così ambigue o non chiarissime. Per esempio, stiamo lavorando in maniera congiunta con il Vaticano per far pagare loro le tasse al comune. Quando sarà pronto tutto il dossier? Non lo so, stiamo lavorando. O ancora, userà il decreto Minniti che consente il DASPO contro chi delinque? Ne parleremo al tavolo in prefettura. E ancora, a settembre l'assessore Massimo Colomban lascerà le partecipate, sarà sostituito, era un assessore a termine, sì, ma sarà sostituito, potrei sostituirlo ma potrei non sostituirlo. Tanto che alla fine dell'intervista finisce così. Sindaca, dalle sue parole è tutto un lavoro in corso. Quando andrà in ferie? Non lo so, non posso dirlo. Cioè, fanno un po' passare il sindaco di Roma. Su tanti temi risponde, come la chiusura di due campi Roma, ma su tante cose come un sindaco che, come dire, sa le cose ma a metà, o almeno non ha i tempi certi di quando si riuscirà a fare tutto quello che promette di fare. Comunque i tempi certi ci sono qui a 24 mattino, meno 4 giorni con Mauro Meazza, signori. Lo sapevi, caro Mauro? Come ti fa sentire questa cosa? Ma Alessandro, bene, perché non, qual è il punto che vuoi enucleare in questo momento? Non lo so, le tue vacanze, andrai in vacanza Alessandro, sì, lo sai? Sì, andrai. Lo sai, sei sicuro? Sì, penso. Spero. Va bene. Sai anche per caso tutte le scadenze nuove del fisco dopo la proroga? Quelle no. Non le sai. Allora, ma perché non le sai? Perché non leggi religiosamente norme e tributi? Non studio, non ripasso, prof. No, ma guarda, oggi su norme e tributi ti abbiamo ripubblicato il calendario, diviso tra non titolari di reddito d'impresa e titolari di reddito d'impresa. E allora così vedi che cosa è cambiato e che cosa non è cambiato per il momento, perché sai che poi non si può mai sapere, magari tu non lo sapevi, c'era la proroga che già era dentro di te, perché la proroga a volte è un po' dentro di te, va bene, stavamo celiando ma la cosa è seria, invece ti invito a leggere, pagina 15 di oggi del Sole 24 Ore, il nuovo calendario. Già ho visto che ti sei appassionato alla vicenda Telecom e naturalmente anche alla buona uscita, no? Mi sembra che ti abbia anche interessato. Beh, sì, è una modesta buona uscita, devo dire, se confrontata alla tua retribuzione, mi pare. Sì, beh, insomma, sì. Diciamo, va bene, sono a metà, ecco. Ti do qualche altra indicazione di lettura per la mattinata. Guarda, allora, innanzitutto oggi è martedì, e questo è un dato di fatto, si sa. E quindi, essendo martedì, c'è il condominio. Oh, tra l'altro parliamo di quando l'amministratore va in vacanza. A proposito. Che non è un remake del famoso film con Marilyn Monroe, ma invece dei doveri, si riepilogano i doveri dell'amministratore che appunto va in vacanza, ma non si deve scordare tutte le sue incombenze nei confronti degli stabili amministrati. Leggete, cari amministratori, ma anche cari condomini, oggi a pagina 25 del Sole 24 Ore. Poi torna sul mercato dei capitali la Grecia con un'emissione di bond. Ci avvisa Vittorio Drol spiegando appunto che le particolarità di questa emissione non accadeva dal 2014. Inoltre ti voglio dire, si parla di siccità, l'hai citata anche tu adesso, siccità a Roma, allora consiglierei, ma anche come meditazione, l'articolo di Jacopo Giliberto oggi nella sezione di imprese e territori che tu leggerai scrupolosamente. Bravo, scrupolosamente. Vedo che dai stai quasi imparando. Gli ultimi giorni. Do tutto, è chiaro così. No, leggilo meditando, perché guarda, vorrei dirti che per cambiare tutte le tubature italiane, che come hai letto non sono efficientissime, abbiamo una velocità che ci consentirebbe di farlo in 250 anni. Oh. Quindi, così, è una delle indicazioni che trovi molto interessanti appunto da meditazione nell'articolo di Jacopo Giliberto. E poi molte altre cose ti vorrei dire, ma attenzione, con il libretto di famiglia è compatibile con la indennità di disoccupazione dei collaboratori, la cosiddetta DISCOL. Tu non hai capito, ma guarda che i collaboratori e anche i consulenti del lavoro sono molto interessati, mm-hmm. E naturalmente i normi tributi. E poi si parla di un cartello dell'auto tra le case automobilistiche tedesche. Ne parliamo in Finanza e Mercati, come mai te lo dico ora? E chi lo sa? È perché è arrivato il momento. Traffico! Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Alessandro Milan, che legge il giornale un culo e anche a domani. Va bene, alle 7.49 minuti, allora ne parleremo poi alle 8.15, racconta il giorno, arriva la stretta contro le truffe agli anziani, reato odioso in particolar modo perché colpiscono magari delle persone fragili e anche in alcuni casi con insomma i riflessi e l'ingenuità insomma dovute in alcuni casi all'età, al cervello magari che non funziona più a 100 all'ora. E allora Veronica Passeri racconta che è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre oggi è facoltativo, la sospensione condizionale della pena subordinata alla riparazione del danno, pene più severe, sanzioni pecuniarie più alte per chi si introduce in casa di un anziano cercando di truffarlo con una scusa. Dunque arriva la stretta sulle frodi agli anziani, questa è la notizia che c'è sui giornali. Il giorno dedica una pagina a questo, pagina 8, e poi ne parleremo più avanti. Per quel che riguarda invece la politica, non è che c'era molto altro da dire se non che Berlusconi passerà la conta libero l'estate alle sagre di paese. Date una bella sagra della frittura o sagra del gelato, magari trovate Silvio Berlusconi, se in Sardegna è meglio perché starà in Sardegna. Salvatore Dama racconta che mentre ricominciano i pellegrinaggi a Villa Certosa, l'abbiamo raccontato ieri, tutti i tentativi di cercare di avvicinarsi a Silvio Berlusconi, ecco che lui farà un'estate tra le persone per cercare di vedere come è il suo grado di popolarità. In tutto questo ci sono giornali, Avvenire, Il Giorno, ma anche il Corriere della Sera mette in prima pagina. Purtroppo ormai siamo alle battute conclusive, pare, della vita di Charlie Gard, questo bambino su cui il mondo si è diviso, questo bambino nato il 4 agosto del 2016, all'apparenza sano, ma che dopo un mese di vita i dottori hanno riscontrato una rara sindrome ereditaria, la depressione del DNA mitocondriale. E sapete che si è scatenata anche una battaglia internazionale con i giudici inglesi che hanno detto, evidentemente perché ormai si era rotto il rapporto di fiducia tra medico e paziente, hanno detto che bisognava staccare le spine perché ogni giorno di vita in più per questo bambino che è cieco, sordo, con le attività cerebrali ormai ridotte al minimo, era un accanimento, una sofferenza, visto che il suo destino era segnato. I genitori invece che dicevano lasciatecelo curare con una cura sperimentale del professor Irano arrivato dagli Stati Uniti appositamente, alla fine tutta la battaglia giudiziaria, il professore arrivato dagli Stati Uniti ha constatato che la situazione ormai è irreversibile. Ecco allora che i genitori, li abbiamo sentiti anche nel giornale radio, con la voce rotta dal pianto, soprattutto il papà, sono presentati ai media e hanno detto il tempo è scaduto, effettivamente stacchiamo la spina. Certo, l'avvocato dei genitori ha ancora avuto un barlume di polemica quando ha detto Charlie, cioè il bambino, ha aspettato con pazienza una cura, a causa del ritardo quella finestra di opportunità è andata perduta. Io non lo so, insomma, non, su questo c'è poco da commentare, solo da, come dire, con rispetto assistere in silenzio purtroppo a quella che è la fine di una vita come era stato prospettato. E però sui giornali trovate ovviamente molto di questa vicenda. Per tornare per un attimo alla cronaca, vi segnalo il richiamo dell'antitrust, la lettera degli antitrust agli influencer. Chi sono? Ne abbiamo già parlato. Gli influencer sono quelle persone, non so, la più famosa in questo momento forse è Chiara Ferragni, 30 milioni, quanti ne ha su Instagram? 10 milioni di follower, ma anche è considerata la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, o Melissa Satta, o Anna Tatangelo, questi secondo il Corriere della Sera. Che cosa ha fatto l'antitrust? Ha mandato loro una lettera dicendo: chi è sponsorizzato online deve avvisare i fan. Questo succede per esempio negli Stati Uniti, c'è una legge. L'antitrust avvisa Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Federica Pellegrini, tanti che in rete ha milioni di ammiratori. La pubblicità deve essere trasparente, anche su Twitter, anche sugli altri social network. E basta dunque al marketing occulto che spesso priva il consumatore di quelle naturali difese che scattano automaticamente quando ci si trova di fronte a un dichiarato intento pubblicitario. E beh, ma perché magari uno pensa queste cose non succedono, invece succedono, nel senso che se Chiara Ferragni mette una maglietta di una certa marca, o Belen mette una gonna di un certo tipo, o Melissa Satta un paio di scarpe di un certo tipo, ci sono persone, moltissime persone che appunto vanno e vogliono e comprano lo stesso tipo di prodotto. Va bene, sappiate che c'è molto ancora dell'orso, l'orso ovunque è estate, quindi non c'è giornale che non abbia una pagina sull'orso, l'orso, l'orso in Trentino che ha ferito un uomo che andava in giro col suo cane e quindi è partita la guerra, orsisti contro antiorsisti. Ieri ho fatto ridere un ascoltatore con questo neologismo. È giusto catturarlo? No, è giusto lasciarlo libero. Non disturbatelo, andate a disturbarlo. Andate a braccarlo? Non andate a braccarlo. Lasciatelo vivere libero? No, catturatelo, dice il presidente della provincia di Trento, con un tanto di ordinanza. E se la situazione è la mala parata, abbattetelo. E quindi qui il dibattito ovviamente che anima tutte le redazioni, i bar, le famiglie: state con l'orso o state contro l'orso? È estate e ogni estate ha il suo orso. Sappiate che se avete il vizio di rimandare a domani siete i procrastinatori, e si è concluso a Chicago un congresso di scienziati che vi ha studiato e ha studiato perché rimandate tutto a domani. Repubblica ne parla per un'intera pagina. Ma siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qui, Emily e le altre, è l'estate senza veli, cioè le donne nude. Vabbè, però insomma, questo non è proprio da carta costa. Vabbè, adesso è la carta costa perché me lo sono tenuto qui, adesso me lo studio bene. Emily e le altre modelle, l'estate senza veli. Ma chi se ne frega!